Ave Maria a tutti, ascoltatori carissimi. Siamo per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi su Radio San Giuseppe e questa sera, se il Signore ci aiuta, anche attraverso l'intercessione del più santo dei santi, termineremmo la seconda parte del testo che stiamo seguendo, un testo davvero straordinario che anche per me è stata fonte continua, diciamo così, e bella di ulteriori informazioni e rivelazioni, oltre a quelle poche che per la verità conoscevo di questo grandissimo santo, e qui cosa di cui ovviamente sono grato. La seconda parte in cui abbiamo visto, diciamo così, alcune particolarità di San Giuseppe, se ricordate, abbiamo visto un pochino di storia, alcuni privilegi di San Giuseppe, e nell'ultima puntata che ci ha lasciato in diretta durante l'ottava dell'Assunzione, se non ricordo male, o addirittura forse anche prima, ne abbiamo saltate un paio per ragioni inerenti ai vari spostamenti di tutti estivi, e con il tema sorprendente della presunta, dobbiamo dire così ovviamente, assunzione al cielo di San Giuseppe in corpo ed anima. Ne abbiamo spiegato, ovviamente seguendo il testo, e le motivazioni che sostengono questa ipotesi teologica, ed anche gli autori, alcuni pezzi da 90, insomma, della spiritualità e dell'ascetica cristiana, che hanno difeso e sostenuto questa dottrina. E oggi termineremo questa parte dove considereremo San Giuseppe patrono dei moribondi, ecco, perché molto importante anche questa dimensione, e vedremo anche i fondamenti teologici di questo particolare titolo tra i molti che ha questo straordinario santo. Vedremo come San Giuseppe è patrono della buona morte. E vedremo poi infine qualche ulteriore considerazione sulla sua straordinaria santità. Quindi vedremo ancora come e in che senso San Giuseppe può essere considerato il più santo dei santi. Poi dalla prossima volta, a Dio piacendo, sperando che questa sera riusciamo ad esaurire, si aprirà la terza parte del testo dove vedremo cosa i papi hanno scritto su San Giuseppe. Alcuni fenomeni mistici legati alla figura di San Giuseppe, cioè alcune apparizioni e anche alcuni miracoli attribuiti nel corso della storia all'intercessione di San Giuseppe, fino poi a giungere ad alcune considerazioni e parole e dottrine di alcuni santi su San Giuseppe e poi ad alcuni aspetti del culto, anzitutto i santuari dedicati al santo. E poi alcune forme di devozione a San Giuseppe, già note alla radio, quindi penso che faremo una puntata abbastanza veloce, tipo la corona delle sette gioie di San Giuseppe, le litanie di San Giuseppe, i sette dolori di San Giuseppe, il sacro manto di San Giuseppe, e la preghiera molto importante, che spero tutti più o meno conosciate, che è a te o beato Giuseppe, di cui sarebbe preferibilmente raccomandabile, ove possibile, la recita quotidiana, una preghiera molto forte, indulgenziata tra l'altro, molto potente e sicuramente molto cara e molto gradita a San Giuseppe. Veniamo subito al tema di questa sera, no? C'è un bellissimo passo del libro dell'Apocalisse che parla della beatitudine, della morte dei fedeli al Signore. Cito Apocalisse 14:13: sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Una cosa molto bella. Sappiamo tutti quanti, io ho avuto modo più di qualche volta di occuparmi di questo tema, che sorella morte corporale, così la chiamava il Santo di Assisi, è l'unico evento futuro e certo della nostra esistenza, dell'esistenza di ogni uomo. Cioè, io non posso essere sicuro neanche di quello che farò tra 5 minuti. Presumo che tra 5 minuti stia continuando questa catechesi per non farla troppo breve. Spero che tra una mezz'oretta sia terminata per non farla troppo lunga. Però, da qui a 5 minuti, perdonatemi adesso, non vorrei sembrare crudo, potrebbe venirmi un infarto o potrebbe venirmi un colpo, perdonatemi. E io tra 5 minuti potrei, anziché stare a terminare, a continuare la catechesi su San Giuseppe, essermi trovato davanti al Padre Eterno nel giudizio particolare. Quindi anche un fatto così ovvio e così scontato come il fatto di terminare un'azione che uno ha cominciato, non possiamo darlo per certo e per scontato. Ma che ci sarà un momento futuro in cui io morirò, è certo. Non posso neanche dare per scontato che tra una settimana sarò ancora su queste frequenze. Se Dio vorrà, se Antonio riterrà utile la mia collaborazione, ci rincontreremo. Se Dio non vorrà e non riterrà utile questa cosa, questo non accadrà. Quindi capite, questo vale per la vita di ogni uomo. Eppure, molti uomini sono così sciocchi da pensare poco a questo evento futuro e certo, che arriverà e che noi sappiamo dalla rivelazione essere un evento che non dobbiamo, come dire, temere in maniera assurda o angosciata, ma che al tempo stesso dobbiamo in qualche modo preparare. Noi non possiamo giungere a questo evento impreparati. Ecco. E certamente il non pensare ad una cosa, per la verità, sport da non praticare, ma purtroppo molto comune tra i mortali, non aiuta affatto a risolvere un problema. Ecco, ma lo lascia lì e lo lascia lì con tutto il suo carico di potenziale angoscia che questo problema porta con sé. Io ho vissuto, per esperienza chiaramente non personale, perché nessuno può raccontare come ha vissuto la propria morte. Però ho vissuto la prova di partita a miglior vita di entrambi i miei genitori e certamente il Signore mi ha aiutato a viverla in un'ottica di serenità, di fede, di obbedienza alla volontà di Dio, di ringraziamento per quello che il Signore mi aveva dato attraverso questi genitori così come sono stati e anche di affidamento della loro anima al Signore, di preghiera molto intensa, di suffragio per le loro anime. Ciò nonostante, io posso testimoniare che Sorella Morte ha una sua grave, come dire, rigidità, ha una sua grave, come dire, potenza distruttiva. Ecco, perché comunque i tuoi sensi vedono un cadavere, i tuoi sensi vedono una bara. I tuoi sensi vedono una lapide su cui c'è una fotografia espressiva, bella, scelta, ma c'è il silenzio assoluto e l'oblio di tante realtà. Ecco perché molte persone che non ci pensano alla morte vanno inesorabilmente a autocondannarsi a morire disperati, a meno che la morte non li colga in maniera improvvisa. Ma se ti coglie in maniera improvvisa, forse non sperimenti la disperazione sulla terra, però tutti i santi che si sono succeduti nel corso della storia pregavano sempre il Signore, quando ci credevano, dico io, salvaci dalla morte improvvisa, perché la morte improvvisa non è certamente da auspicare, perché non è detto che la morte mi trovi preparato. Ci sono tante parabole del Vangelo di nostro Signore, pensiamo a quella delle 10 vergini, per esempio, o a quella dell'amministratore disonesto che si mette a mangiare, bere, ubriacarsi e poi il padrone di casa arriva quando meno se l'aspetta, oppure a quell'altra parabola del banchetto nuziale, quello che stava senza la veste nuziale viene cacciato fuori, non entra nel banchetto, no? Sono tutte quante e parabolette che ci fanno comprendere come sì, certamente Dio ci vuole tutti con sé, ma non è detto che siamo pronti ad andare con Lui. Ecco. Quindi sì, si può morire disperati, è come c'è stato un noto personaggio pubblico che chiaramente io non voglio nominare e non voglio neanche infierire, perché poi dinanzi a sorella morte cessano anche tante contese e liti, no? Però è dire che si tratta di una persona straordinariamente intelligente, che mi venga a riproporre nel XXI secolo quella grossa sciocchezza che disse a suo tempo Epicuro per esorcizzare il problema morte, non esorcizzandolo. Sapete cosa diceva Epicuro? No? Epicuro diceva che la morte non è un problema perché quando io ci sono la morte non c'è e quando c'è la morte non ci sono io. Solo che c'è un piccolo problemino, caro Epicuro e cara e anima e famosa che ripeteva queste cose anche poco prima di passare a miglior vita. Per noi uomini non è così, perché è così per gli animali. Ecco, io ho avuto recentemente problemi abbastanza seri con la salute del mio cagnolino e vedendolo soffrire tanto, adesso grazie a Dio pare che si stia rimettendo, pensavo, dico, speriamo che non sarà necessario sopprimerlo. Però perché questo? Perché per un cane la sofferenza è il male assoluto, ma lui non sa che dovrà morire, per cui per un cane veramente morire è un fatto completamente ignoto, per cui quando arriverà la morte lui cesserà di essere e se la morte è indolore non se n'è neanche accorto, ha finito la sua vita terrena che è l'unica che ha, ma Rex non sa il mio cagnolino che un giorno dovrà morire e non lo sa neanche se si vede davanti i cadaveri di altri cani. Lui non è capace di fare un ragionamento tipo vedo il cadavere di un cane e un giorno toccherà a me. Siamo capaci soltanto noi. Per cui per gli animali è vero quello che dice Epicuro, cioè che quando loro ci sono la morte non c'è e non sanno che ci sarà però oltre che non c'è. E quando la morte ci sarà loro non ci sono più ed è realmente così per gli animali, ma per noi no. Figli e fratelli carissimi che siete in ascolto. Ecco, quindi o tu ti ci pensi e ti prepari, e adesso vedremo come è morto San Giuseppe, fai in modo di poter morire come è morto lui, oppure la morte sarà un problema, è un problema grosso, grosso, grosso, grosso, perché io purtroppo per il ministero, non chiamiamolo lavoro, un po' particolare che faccio, voi sapete, con sacerdoti inevitabilmente si trova spesso e volentieri incontro in faccia alla morte. Io per la verità non ho mai visto morire nessuno. Ho visto le persone che stanno per morire, anche molto molto vicine, anche mezz'ora, un'ora prima dell'ultimo respiro, e ho visto le persone morte, ma alla morte proprio di una persona, cioè all'ultimo respiro, non ho mai assistito. Però quello che ho potuto vedere, soprattutto del prima di alcuni casi, è sufficiente per fare una considerazione, dice, quanto è differente morire con Dio nel cuore, quindi stando in grazia di Dio e stando bene, e quanto è differente invece morire senza Dio nel cuore. C'è una grandissima differenza. Allora, tutta questa premessa per dire che c'è una grandissima differenza tra il morire disperati o il morire in pace con Dio. Ora, la tradizione, ne abbiamo già accennato precedentemente, ci narra che San Giuseppe è morto prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù. Vedremo adesso alcune fonti, chiaramente che vengono dalla mistica, ma sono due fonti oltremodo attendibili perché si tratta di due venerabili, anzi la prima è già diventata beata, quindi doppiamente attendibile. E ho già detto in altre circostanze che gli scritti dei venerabili, pur ovviamente non avendo un riconoscimento ufficiale della Chiesa, sono però vagliati dalla Chiesa, perché non si può diventare venerabili se una volta esaminati gli scritti, in quegli scritti non si sia riscontrato nulla di contrario alla sana dottrina. Questo non vuol dire che tutte le cose che stanno scritte negli scritti sono dogmi di fede o sono sicuramente attendibili al 100%, però c'è comunque già un primo screening, insomma, una sorta di prima scrematura non indifferente, no? Allora, la tradizione secondo cui Giuseppe morì santamente tra le braccia di Gesù e di Maria è confermata da entrambi questi scritti. Il primo è la testimonianza della beata, appunto beata, non soltanto venerabile, Anna Caterina Emmerich, che al riguardo scrive, qui cito testualmente: quando Giuseppe morì c'era Maria seduta alla testata del letto e lo teneva tra le braccia, mentre Gesù era vicino al suo petto. Vidi la stanza piena di splendore di angeli. Giuseppe, con le mani giunte sul petto, venne avvolto in teli bianchi, collocato in una cassa stretta e deposto in una bella caverna sepolcrale che un buon uomo gli aveva regalato. Oltre a Gesù e Maria, poche persone accompagnarono il feretro, persone umane, feretro che vidi invece tra grandi splendori e angeli. Quindi, chiaramente, supposta per vera l'ipotesi che abbiamo visto nella puntata precedente, dentro questo sepolcro San Giuseppe c'è rimasto fino alla risurrezione di Gesù, perché dopo la risurrezione di Gesù sarebbe stato tra quei risorti di cui ci parla nel Vangelo, che hanno per grazia particolare di Dio i più santi che sono esistiti nell'Antico Testamento, in primis ovviamente San Giuseppe, ricevuto un anticipo di ciò che sarà di tutti gli uomini alla fine del mondo. Questo per ricordare anche ciò che abbiamo visto nella puntata precedente, no? C'è un'altra testimonianza, che è quella della venerabile Maria di Gesù di Agreda. Non so se su queste frequenze web l'ho già raccomandato, però io straraccomando la lettura della mistica città di Dio della venerabile Maria di Gesù di Agreda. Perché insieme a un altro testo di un'altra mistica, stavolta italiano, tra l'altro curato da un grande mariologo, che è Gabriele Roschini, mariologo di fama internazionale, che rimase profondamente colpito dalla mariologia emergente dagli scritti di questa mistica, che è Maria Valtorta, che io personalmente stimo non poco, e secondo me mistica città di Dio e La Madonna negli scritti di Maria Valtorta di Gabriele Maria Roschini sono i testi in assoluto più importanti per farsi un'idea viva di ciò che la Madonna realmente era. Ci sono dei best seller che sono assolutamente indispensabili per le anime mariane, come Le Glorie di Maria di Sant'Alfonso, gli scritti di San Luigi Maria Monforte, Il Trattato della Vera Devozione, Il Segreto di Maria, e molti altri scritti. Ci sono gli scritti del padre Manelli di Casa Mariana, e gli scritti del padre Ragazzini, sempre editi da Casa Mariana, gli scritti di San Massimiliano Maria Kolbe, che chiaramente devono essere un po' presi qua e là perché lui non ha scritto niente di sistematico, però da un punto di vista di quelle che potremmo chiamare le mariologie vive, secondo me questi due testi sono assolutamente insuperabili e tra l'altro complementari gli uni con gli altri, perché negli scritti, nella mistica città di Dio di Maria d'Agreda, emerge una Madonna divina, veramente proprio divina, ma pienamente umana, mentre a mio modestissimo avviso negli scritti di Maria Valtorta emerge una Madonna molto umana in senso buono, ma umanamente divina. Se volessimo fare uno slogan, negli scritti di Maria d'Agreda abbiamo una Madonna divinamente umana e negli scritti di Maria Valtorta c'è una Madonna umanamente divina. Questo è il mio modestissimo e personalissimo, quindi opinabilissimo parere. Detto questo, perdonatemi, però così facciamo sempre anche un po' di formazione e informazione. E veniamo alla citazione di questo stralcio che riguarda la morte di San Giuseppe. Cito: Gesù gli diede la benedizione e gli disse: Padre mio, riposa in pace nella grazia di mio Padre celeste e mia. Ai miei profeti e santi che ti aspettano nel limbo, porta le liete notizie dell'arrivo imminente della loro redenzione. Tra le braccia di Gesù spirò il santo e felicissimo Giuseppe e Gesù gli chiuse gli occhi. Pensate che bella cosa. E nello stesso tempo una moltitudine di angeli che assistevano col loro re e la loro regina intonarono dolci cantici di lode con voci celestiali e melodiosi. Essi portarono la sua anima al limbo dei padri e dei profeti, dove causò nuova gioia quella incalcolabile redenzione. A rischio, carissimi ascoltatori, di dover rimandare alla prossima puntata l'ultimo paragrafo di questa seconda parte, che è quello che ribadisce la straordinaria santità di San Giuseppe, io vorrei fermarmi un istante su questa citazione della Venerabile Maria di Gesù da Greda, non soltanto per evidenziare alcuni aspetti del transito, diciamo, unico di San Giuseppe, ma anche per evidenziare, diciamo così, alcuni aspetti che sono tipici del fenomeno morte in quanto tale. Ecco. Ci avviciniamo lentamente verso l'autunno, ecco, personalmente uno dei periodi dell'anno a me più cari, e non è troppo lontano il mese di novembre, quindi facciamo finta che a 2 mesi dal 2 di novembre possiamo fare una piccolissima riflessione su questo punto. Allora, San Giuseppe è morto tra le braccia di Gesù, ci dice, e tra le braccia di Maria, tutte e due. Allora, noi dobbiamo chiedere al Signore, per avere una santa morte, che dobbiamo invocare da San Giuseppe, adesso però vedremo al termine di questo paragrafo, la grazia di poter morire con i nomi di Gesù e di Maria sulle labbra. Noi non possiamo toccare e stare proprio tra le braccia di Gesù e della Madonna, ma ci possiamo gettare tra le braccia di Gesù e della Madonna. Per gettarci tra le braccia di Gesù e della Madonna non dobbiamo fare chissà che o chissà che cosa, perché basta semplicemente un'invocazione mentale. Non so se voi sapete, basta nominarli quei nomi, basta dire Gesù e Maria. E dicendo semplicemente, invocando questi nomi, loro mi sono già al mio fianco e io sono già adagiato sul loro petto. Loro sono sempre in ascolto di noi, capite? Quindi morire come tantissimi santi con i nomi di Gesù e di Maria sulle labbra e nel cuore, perché può darsi anche che le nostre labbra non si possano muovere durante l'agonia, ma il pensiero speriamo di sì. E io spero che con quello che ho accennato prima voi siate così bravi e così sapienti da un punto di vista soprannaturale da chiedere al Signore di poter darci la grazia di essere consapevoli quando arriverà il grande momento. E quando arriverà il grande momento, la più bella morte è quella di poter dire: Signore, stai arrivando, ecco, c'hai davanti a te il più grande peccatore dell'universo, quindi, che ha cercato durante la vita molto maldestramente, molto goffamente, di volerti un po' di bene, di servirti un po', ti rendo l'anima che tu mi hai data, spero per la tua grazia che non sia completamente nuda, che ci abbia almeno qualcosa di buono, anche se molto imperfetto, da presentarti, ti offro la mia vita che tu stesso mi hai dato e sono pronto tranquillamente a lasciare tutto quello che riguarda il pianeta Terra, ringraziandoti di averlo vissuto senza dolore e senza rimpianti, e anche affidandoli tutti coloro che mi vogliono bene, che sono forse vicini a me o comunque in qualche modo a contatto con me, anche se non presenti, sperando di poterli tutti quanti ritrovare un giorno nel tuo regno, ecco. Invocando i nomi di Gesù e di Maria, invocando i nomi di Gesù e di Maria, essendo nella possibilità di poter ricevere il santo viatico. Il santo viatico, voi sapete che addirittura la Chiesa dice che è obbligatorio per i fedeli ricevere la comunione prima di morire. Cioè la comunione, il viatico, che io vi posso dire, sono prete da 9 anni, a dire che su questo posso, insomma, poter affermare di aver dato una disponibilità assoluta. Io ho sempre detto ai miei fedeli: per queste cose la notte il mio telefono sta sul comodino, il telefono di casa, d'accordo? Con suoneria attiva. Solo una volta mi è successo che una persona mi ha chiamato all'1:20 per ricevere, tra l'altro, l'estrema unzione. Mi sembra che già non faceva più in tempo a ricevere il viatico. Il viatico bisogna riceverlo, perché la Chiesa dice che la comunione, che è raccomandata il più spesso possibile a tutti i fedeli, è però obbligatoria, almeno a Pasqua, e in punto di morte, nel viatico. Voi pensate a quanto male, quante disgrazie che fanno tanti fedeli, ovviamente, figli del nostro balordissimo tempo, che in buona fede, per non far preoccupare l'anziano o il malato, che se vede il prete poi chissà che pensa, o non mi chiamano proprio, o mi chiamano qualche rara volta per dare l'olio santo quando l'anima è già incosciente. Per carità, l'olio santo quando l'anima è già incosciente, non date retta a qualche sciocco che dice bisogna darlo lo stesso, e anche le preghiere di non vi dico poi le preghiere di raccomandazione dell'anima, l'ho fatte in vita mia 4-5 volte, forse, guardate, non voglio dire le bugie, forse 10 volte. Non gliene importa più niente a nessuno, eppure si sanno delle storie edificantissime per queste cose qua. Però il viatico non c'è. Quindi, cioè, qui non si tratta soltanto del nome di Gesù sulle labbra, qui si tratta di avere Gesù nel cuore. Gesù non aveva ancora istituito l'Eucaristia quando è morto San Giuseppe. Quindi o gli stava vicino, proprio, ma noi possiamo avere Gesù, proprio Gesù in persona, nel cuore. Per certi aspetti San Giuseppe ci perdonerà più che San Giuseppe, perché San Giuseppe ce l'ha avuto vicino, gli è morto sul cuore, cioè San Giuseppe è morto sul cuore di Gesù, ma noi possiamo morire con Gesù nel cuore nostro se facciamo la comunione. Quindi io vi raccomando, cioè, la vita di un figlio, cioè, noi dobbiamo avere un rapporto assolutamente sereno con questa realtà, e anche quando capitasse ai nostri cari. Io quando vedo qualche genitore che si ammala, prendo subito i figli e dico, mi raccomando, cioè, preparati, offri, cioè, entra nell'ottica di Dei e cerca di stare, cioè, cerca di fare il possibile, perché fino a quando c'è un caro vicino, stagli vicino, perché dopo ti verranno 30.000 rimpianti e tante altre questioni. Però al tempo stesso preparati, comincia ad offrire il sacrificio della rinuncia a questa persona cara al Signore. Cioè, guai a noi se non ci pensiamo mai a queste cose. Io penso che il rapporto con la morte sia uno dei punti fondamentali, dei punti cardine della nostra fede. Uno, non possiamo avere il terrore della morte, né possiamo fare gesti apotropaici quando si nomina la morte. Io prima ho detto, se mi viene un infarto tra 5 minuti, ma io questa cosa la dico tranquillamente, non è che me lo auguro, ma se quello dovesse succedere, pazienza, è successo, cioè la morte arriva da un momento all'altro. Speriamo che non è passato troppo tempo dall'ultima confessione, ecco, speriamo. Capite? Senza fare gesti strani tipo Totò o cose di questo, toccare ferri, cose, i corni, non ha senso per noi figli di Dio agire in questo modo. Noi siamo figli di Dio, certamente c'è il giudizio particolare, che non ha l'esito scontato, però dobbiamo anche un minimo confidare. Si parla sempre della Divina Misericordia, cioè, Se Gesù ha promesso che basta che uno invoca il suo nome in punto di morte, ecco perché voi sapete che nel rituale dei sacerdoti, per esempio, anche l'unzione degli infermi sarebbe da dare ordinariamente quando la persona è cosciente, no? Perché? Per fargli compiere. Se la persona, per esempio, non può parlare, il sacerdote, sta proprio nel rituale, può presentargli il crocifisso da baciare. Perché se quello dà un bacio al crocifisso, se compie quel gesto, noi possiamo essere certi, moralmente certamente, perché poi il giudizio ultimo, se sta fingendo o sta facendo soltanto per far contento il prete, questo non possiamo sapere, però possiamo essere certi che per l'infinità della Divina Misericordia quello non va dannato. Ha forse un lunghissimo purgatorio da affrontare. Quindi se basta così poco, quindi perché Dio ci vuole salvi. Se io, insomma, ho vissuto una vita in cui, cioè, io penso alla mia, guardate i difetti che c'ha Don Leonardo, penso che sia più facile contare la sabbia del mare, però dentro questo fatto c'è, cioè io un pochino ci provo, volendo un po' di bene al nostro Signore, e un pochino ci provo almeno a sforzarmi di provare a fare quello che capisco essere la sua volontà. Può darsi anche che poi mi sbaglio. Io non sarebbe assurdo pensare con un suo figlio, anche se poi come prete e come parroco sarò bello che spazzolato ed è giusto che sia così, però non si può pensare che il nostro Signore cioè, sia spietato, implacabile con una persona che almeno un po' ha cercato di volergli bene, ripeto, in maniera assolutamente grossolana e miserabile e tante altre cose, insomma, no? Ecco, oh, poi l'anima di San Giuseppe è stata presa dagli angeli e portata nel limbo. Molta gente si chiede che cosa succede quando noi moriamo. Qualcosa lo sappiamo di cosa succede quando noi moriamo. Perché succede che la nostra anima viene presa dal nostro angelo custode e viene immediatamente portata davanti al Padre Eterno per ricevere il giudizio particolare. Questo succede perché qualcuno di voi conosce forse la strada per andare in paradiso. Chi ci accompagna lì? Ci accompagna il nostro angelo custode. A San Giuseppe l'ha portato direttamente nel limbo e l'ha portato in questo modo, angeli in trionfo, perché insomma San Giuseppe è andato nel limbo soltanto perché non era stata compiuta la redenzione. Sapete che prima della redenzione nessuno è entrato in paradiso, Anche Elia ed Enoch, questi misteriosissimi personaggi biblici. Misteriosissimi personaggi biblici che sono stati rapiti e non si sa che fine hanno fatto. In loro non si è verificata la risurrezione della carne. Questi non sono morti mai, ci dice la Sacra Scrittura. Due grandi figure misteriose, ma sicuramente non sono stati portati nel cielo empireo, cioè in quello che con questo nome si esprime, tra virgolette, il luogo, poi se è un luogo o non è un luogo, non lo so, cioè, lasciamo perdere adesso questi discorsi, dove comunque si contempla l'essenza divina. Prima della redenzione questo non l'ha vissuto nessuno, perché c'era comunque da pagare il debito di Adamo. Quindi San Giuseppe si è trovato nel limbo solo per questo motivo. Qui sarebbe anche da aprire, incidente tantum, io vorrei farlo però, quindi Antonio e gli ascoltatori mi perdoneranno. Il discorso è una volta avvenuta la risurrezione di Gesù, quindi una volta che questi santi padri sono andati in paradiso, alcuni solo con l'anima, altri a quanto sembra anche con il corpo, quindi è stato svuotato il limbo dei santi padri. Il limbo non c'è più adesso? Sapete che ci sono state delle questioni negli anni scorsi. È uscito anche un documento della Pontificia Commissione, come si chiama, la Pontificia Commissione Teologica Internazionale, scusate, la Commissione Teologica Internazionale senza Pontificia, la CTI, che, come dire, sembra essere possibilista su un'eventuale non esistenza del cosiddetto limbo dei bambini. Però, numero uno, sembra essere possibilista, non ha certamente affermato esplicitamente la non esistenza, bisogna leggere il documento. Che poi se ci sia, sia stata la vulgata mediatica e anche non mediatica, il limbo non esiste più, possiamo stare tutti tranquilli. Questo non è assolutamente vero, bisogna leggerlo. Uno. Secondo, un documento di una Pontificia Commissione Teologica Internazionale non ha nessun valore magisteriale. D'accordo? Quindi se anche avessero detto, come non hanno detto, che il limbo non esiste, questa affermazione non ha, da un punto di vista dogmatico, nessuna rilevanza magisteriale. Perché quell'organismo non è organismo di magistero, è un organismo consultivo, d'accordo? Che la Santa Sede adopera per certe questioni, ma senza farne automaticamente i propri responsi. Questo è il numero due. Numero 3, e qui perdonatemi che ci ho fatto dei corsi, anche se non esiste un dogma di fede sull'esistenza del limbo, quindi è argomento di libera discussione, a differenza del purgatorio, del paradiso e dell'inferno, che sono tutti dogmi di fede, ci sono però delle affermazioni molto forti, alcune anatematizzate, di alcuni concili che, senza nominare il limbo esplicitamente, fanno però comprendere che per coloro che non sono stati battezzati esiste un luogo o uno stato, chiamatelo come volete, dove si soffre come unica pena la privazione della visione di Dio. Ed è esattamente ciò che la tradizione ha chiamato limbo. Adesso io non ho qui pronte tutte quante le citazioni, però se qualche spettatore è interessato, ascoltatore è interessato, lo faccia sapere Antonio. Antonio me lo comunichi, la settimana prossima gli cito tutti quanti i concili e gli cito testualmente, ce l'ho già pronti perché ci ho fatti dei corsi, quindi devo soltanto aprire il file e leggerlo, riguardo questo argomento. Quindi questo è molto importante, perché se muore un bambino prima del battesimo, cosa faccio? Se c'ho un aborto spontaneo, cosa faccio? È andato diretto in paradiso questo bambino? C'è una pia pratica che io ho sempre fatto e che ho sempre raccomandato di fare a tutte quante le persone, che è il battesimo dei bambini non nati, che dove possibile si fa, in maniera molto semplice, si fa celebrare una messa dove partecipano i genitori e quel bambino che loro avrebbero portato al fonte battesimale lo portano, diciamo così, spiritualmente a Dio, chiedendo a Dio che su di lui scendano le grazie e gli effetti del sacramento del battesimo. E a mio modestissimo parere, con questo gesto si può avere senza dubbio la certezza che da subito il bambino stia in paradiso. Eventualmente questi argomenti li riprenderemo. Ora, avendo avuto una morte così eccellente, quindi sul petto di Gesù e della Madonna, come anche noi però possiamo avere, evidentemente i papi, e in particolare Papa Benedetto XV, con una pronuncia datata il 25 luglio 1920, ha nominato San Giuseppe avvocato e protettore degli agonizzanti. Cito anche qui le sue testuali parole: avendo la sede apostolica approvato diversi modi di onorare il Santo Patriarca, si celebrino con tutta la solennità possibile i mercoledì. Questo lo vedremo poi, penso che gli ascoltatori sappiano che il mercoledì è il giorno dedicato a San Giuseppe e il mese a lui dedicato, anche questo penso che lo sappiate, che è il mese di marzo, in tutte ed in ciascuna delle diocesi a istanza dei vescovi. Ma principalmente, poiché è singolare protettore dei moribondi, siccome alla sua morte erano presenti lo stesso Gesù e Maria, parole di un Papa, queste sono parole pesanti, incoraggino i venerabili fratelli, quelle pie associazioni che furono fondate per pregare San Giuseppe in favore dei moribondi, come quella della Buona Morte, la Confraternita della Buona Morte, queste cose qui oggi molti cristiani non sanno neanche che esistevano, e quella del Transito di San Giuseppe, affinché egli aiuti con tutta la sua autorità gli agonizzanti. Ecco perché nelle pie giaculatorie, carissimi ascoltatori, ce n'è una: Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia, Gesù, Giuseppe e Maria, e assistetemi nell'ultima agonia. C'è anche il nome di San Giuseppe, e non è un caso. La morte di Gesù è la morte più santa di tutte. La Madonna, come sappiamo dall'Assunta, ebbe un beatissimo e placidissimo transito, non una morte in senso stretto a quanto sembra, che chiuse gli occhi in estasi e quando li riaprì gli angeli avevano già portato il suo corpo in paradiso, quindi senza passare per il travaglio violento, ecco, di sorella morte corporale. Questo sembra, anche se relativamente a questo punto non siamo coperti dal dogma di fede, perché Pio XII volutamente glissò su questo punto, cioè sulla modalità concreta della fine della vita di Maria, affermando però che al termine della vita terrena fu portata in cielo in corpo ed anima. Però c'è anche la morte appunto di San Giuseppe, che è stata una morte santissima, e una morte santissima non solo, oserei aggiungere, perché circondata dall'affetto e dalla presenza di Gesù e Maria, ma anche perché coronata del fascio di opere sante compiute durante la sua esistenza terrena. Pio XI, nelle litanie di San Giuseppe, che avremo modo di vedere, che furono ufficialmente approvate il 31 marzo del 35, lo acclama come patrono dei moribondi, ora pro nobis. E nel catechismo della Chiesa Cattolica, oltre che ad essere esortati ad affidarci a Maria Santissima perché interceda nell'ora della nostra morte, come del resto lo diciamo ogni volta che recitiamo l'Ave Maria, c'è l'esortazione anche ad affidarsi a San Giuseppe come patrono della buona morte. Questo lo trovate nel 1014, numero 1014 del Catechismo della Chiesa Cattolica. E ora c'è un'ultima, penso che stiamo andando verso la conclusione, quindi confermo quello che ho detto precedentemente, che per dare anche sempre un pochino un taglio pastorale, catechetico a queste nostre conversazioni, la prossima volta chiuderemo la seconda parte di questo capitolo, sperando che Antonio non abbia troppa fretta di esaurirlo e che non mi tiri le orecchie. E volevo citare appunto un episodio molto edificante raccontato dalla venerabile Anna di Sant'Agostino, una carmelitana scalza molto devota a San Giuseppe. Vi ricordate, come tutti i carmelitani, mi sembra che ne abbiamo già avuto modo di parlare in qualche incontro precedente, circa la straordinaria devozione di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce a San Giuseppe, a cui affidarono la riforma che poi riuscirono tra tante tribolazioni ad effettuare dell'ordine carmelitano. Allora, era molto devota a San Giuseppe questa carmelitana scalza, e quando arrivò l'ora della sua morte, della sua agonia, vennero a portarla in cielo Gesù, San Giuseppe e Santa Teresa d'Avila. Ora, cito testualmente: la moribonda, vedendo la sua cella trasformata in un cielo, diede segni di gioia straordinaria. A un certo punto esclamò tre volte: i miei genitori, riferendosi a San Giuseppe e a Santa Teresa. Una carmelitana di grandi virtù, che abitava in un convento diverso, mentre stava pregando per l'inferma, la vide salire in cielo tra San Giuseppe e Santa Teresa, seguita da un gran numero di angeli e di santi che componevano il corteo trionfale. Così San Giuseppe onora nell'ora della morte coloro che lo onorano in vita e gli chiedono la grazia di una buona morte. Ecco, quindi addirittura accompagnata in cielo, oltre che dall'angelo custode, che non l'hanno vista, da Santa Teresa e da San Giuseppe. Infine San Vincenzo Ferrero, un altro grande santo, un classico, diciamo così, dei santi della tradizione cristiana, che questo è vissuto nel tardo medioevo, nel basso medioevo, dal 1350 al 1419, mentre predicava un giorno l'omelia della festa di Natale, raccontò quanto segue. Un mercante di Valencia, Spagna, invitava a casa sua tutti gli anni nel giorno di Natale un povero anziano e una donna col suo bambino piccolo, st'opera di misericordia corporale. E perché faceva questo? Perché gli raffiguravano la Vergine col bambino Gesù e Giuseppe. Cosa è successo? Alla sua morte gli apparirono la Vergine con il bambino e San Giuseppe e gli dissero: per averci tu ricevuto nella tua casa, noi ti riceveremo nella nostra. Ecco, questi due ultimi, diciamo così, graziosi episodi ci fanno ulteriormente comprendere quanto è importante la devozione a San Giuseppe, perché ci accompagni a vivere una buona e santa morte. Io mi fermerei qui. Bene, è terminata quindi la catechesi di Don Leonardo.